la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta in questo giovedì 19 di giugno, 16:35, primi 43 secondi. Vado a dirvi di che trattiamo oggi per chiedervi di darci la vostra opinione chiamando l'800240024 e i vostri messaggi al 349-238-6666. La domanda che vi faccio è questa: io ho un'impressione, magari mi sbaglio, ditemelo se secondo voi è sbagliata. Da una parte rifletto sul fatto che milioni di italiani, comunque tantissimi, stanno guardando con grandissima passione la serie televisiva dedicata a Gomorra. Quindi Camorra, Casalesi, dall'opera di Saviano, eccetera, eccetera. Questo da una parte. Dall'altra a me capita, come giornalista, guardando tutti i siti dei giornali, ovviamente ogni giorno li tengo tutti aperti, scrollo le notizie e così via, come fanno tutti i colleghi, e c'è un rovello che mi è venuto dal tempo. Come si concilia il fatto che milioni di voi sono appassionatissimi a Gomorra, è diventato quasi un brand televisivo sicuramente che sarà stravenduto nel mondo, eccetera, eccetera, però dall'altra parte io vedo con una frequenza che secondo me è del tutto simile a quella degli anni di scontro di Camorra terrificante, quello dei tempi di Cutolo. Io vedo 2-3 volte a settimana morti ammazzati a pistolettate sul sito del Mattino a Napoli e in Campania, e di tutto questo però io non trovo nulla, nulla sui giornali italiani, sui giornali nazionali. Come sta insieme questa cosa? Cioè, per cui milioni di italiani sono convinti nella loro testa, sì, non solo di seguire quella storia televisiva perché è avvincente, per come è fatta, ma che siamo, in parole povere, un po' tutti mobilitati finalmente contro la Camorra, e dall'altra parte poi di fronte a quello che avviene ogni giorno, sì, se ne occupano i colleghi di Napoli, perché ovviamente è il loro mestiere, ma tutto il resto d'Italia... Io non credo che molti di voi nel resto d'Italia abbiano un'idea di quanti sono i morti ammazzati a pistolettate a Napoli e in Campania dall'inizio dell'anno. Allora la domanda è: perché? Perché la storia dei Casalesi e di come lo Stato non li ha affrontati e poi li ha affrontati? Notizia di oggi, il sequestro di un prestanome con patrimonio per 110 milioni di euro, se andate sul sito del Mattino lo trovate. È avvincente perché c'ha una grande capacità, direbbe Renzi, di storytelling dietro, mentre quello che succede oggi sui morti ammazzati di Malavita e Camorra a Napoli no, non lo so. Io lo chiedo a voi, per sapere, sia che siate napoletani, campani, che il resto d'Italia, se è un'impressione sbagliata e che spiegazione date. Però ho ritenuto opportuno far parlare chi ogni giorno poi fa l'osservatore, il decrittatore, l'esplicatore di come sta oggi a Napoli e in Campania la lotta alla criminalità e i colpi che la criminalità porta alla cittadinanza, all'economia, alla società civile, alle forze dell'ordine. E allora ho chiesto a un giornalista del Mattino, Leandro Del Gaudio, che segue appunto da anni queste vicende, di stare con noi per questi minuti oggi pomeriggio e di darci la sua versione. Grazie di essere qui ai nostri microfoni, Leandro. Ciao direttore, grazie a te per avermi invitato. Allora, innanzitutto la mia impressione è sbagliata o è giusta secondo te? No, è corretta e c'è oggettivamente una forma di isteria nell'attenzione mediatica nei confronti del fenomeno Camorra targato Napoli, targato Campania, e questo lo dicono proprio i dati. Ci sono momenti in cui lo scenario pulp napoletano viene seguitissimo sia in termini di narrativa che in termini di ricostruzione giornalistica. Poi questa attenzione ad un certo punto cala pericolosamente, e proprio quando l'attenzione si abbassa che si sviluppano nuovi eventi, nuovi avvenimenti, episodi che poi chiaramente continuano a contrassegnare in senso negativo il nostro territorio. Su questo hai perfettamente ragione. Ma ti dico, tu prima facevi un intervento giusto parlando di morti ammazzati, ma noi recentemente abbiamo registrato nel nostro territorio, alle porte di Napoli, ti parlo di una distanza di 20 km dal centro, da Piazza Plebiscito per intenderci, quindi nei comuni dell'Interland napoletano, una sequenza di morti di persone ammazzate dopo essere state seviziate, interrogate secondo la tipica liturgia criminale della Camorra, e poi con episodi che sono finiti con la carbonizzazione del corpo. Ne sono avvenute 6 o 7 tra Fragola, Casoria, Casalluogo, insomma questi paesoni alle porte di Napoli, e tutti questi episodi episodi di morti ammazzati e poi brutalmente carbonizzati rispondono ad una logica, quella di impedire ai parenti delle vittime di piangere i propri cadaveri, i propri cari con una degna sepoltura. Quindi siamo ad una dimensione di ferocia che è tipica delle, insomma, dei clan medievali, se proprio vogliamo andare indietro nel tempo. Nonostante tutto non c'è un titolo dei giornali tiratura nazionale che abbia raccontato cosa è accaduto o che si sia semplicemente interessato al fenomeno, che vada ovviamente al di là della conta dei morti, che è abbastanza sterile. È chiaro che noi non è che interessa poi fare, appunto, usare il pallottoliere, a noi ci interessa capire il fenomeno criminale che si annida dietro certe dinamiche insomma così efferate. E nonostante tutto, nonostante si sia alzato il livello di guardia anche da un punto di vista del controllo delle forze dell'ordine, perché c'è un'attenzione spasmodica su quello che è avvenuto, nonostante ci sia un pericolo percepito da parte della cittadinanza molto elevato, nonostante tutto si parla poco di certe cose, mentre al contrario uno sceneggiato, un reality assume una maggiore appeal, assume un maggiore appeal, incassa un maggiore appeal da un punto di vista televisivo. Perché poi il documentario sul crimine organizzato oppure la ricostruzione del processo in diretta TV il sabato notte, quando viene da Napoli, sicuramente riscontra poi una contraddittoria attenzione. Su questo sono perfettamente d'accordo con te. Allora, prima di farti un'altra domanda, iniziamo a sentire un ascoltatore che ci chiama da Roma, Luigi. Prego Luigi, che impressione hai? Buonasera Giannino, sì. Io la seguo sempre. E che impressione ho? Ho questa impressione che questi morti ammazzati non vengono indicati nei giornali nazionali, sì. Perché i giornali nazionali sono praticamente succubi della politica, e siccome la politica è praticamente collusa con la mafia, effettivamente non gli fa comodo che i giornali nazionali vengano a parlare di questa roba. Questa è la mia impressione. Lei fa proprio un nesso causale diretto. Io al massimo arriverei a una correlazione. La mia opinione è che noi dedichiamo in generale troppe pagine nei giornali stampati al giorno e troppi minuti dei telegiornali alla politica. Io in questo sono d'accordo con lei. Basta girare qualche altro paese europeo e si vede che non c'è. È chiaro che i media informano, ma non hanno questa parossistica attenzione a ogni singola cosa di ogni singolo partito. Quindi temo che, in questo sono d'accordo con lei, dire che c'è una specie di patto diretto, non lo so, ci sono molte collusioni storicamente nelle aree di grande criminalità organizzata, però alla fine i giornalisti, secondo me, sono, guardate, voi che siete a casa siete molto più convinti che siano eterodiretti. I giornalisti sono conformisti, io parlo per primo, cioè non è che mi tiro fuori, e quindi gli altri fanno sei pagine sulla assemblea del PD, sei pagine, bisogna riempirle comunque. La mia domanda è: possibile mai che da una parte ci appassioniamo a Gomorra e dall'altra quello che succede lì, che secondo me è di una gravità senza pari, nel senso che non si tratta di qualche fenomeno ogni tanto, è una cosa che ha una forza e una potenza territoriale ancora, la Gomorra di oggi, non dico solo quella dei casalesi e così via, che secondo me non è raccontata, non è descritta, non è percepita, non è avvertita come un'emergenza nazionale. Dov'è questa emergenza nazionale? Noi continuiamo a dedicare centinaia di pagine alla storia ipotetica del se e ma c'è stata una trattativa vent'anni fa tra la mafia, Berlusconi e così via, e il mio amico Marco Travaglio che su questo ha fatto un altro libro, cose via. Ma quello che succede a Napoli e in tutto l'Intra, stiamo parlando di milioni di persone, quello che succede ogni giorno ce ne fottiamo. Questo per me è una cosa incomprensibile, completamente incomprensibile, perché l'impatto che questa roba continua ad avere sulla mancata crescita, sul fatto che la gente continua ad avere ogni giorno milioni di persone, l'idea che un'adesione spontanea all'ordinamento è complicatissima perché finisci carbonizzato, capite cosa vuol dire carbonizzato? Ecco, non mi accontento del successo televisivo, del fatto che Saviano viene chiamato a parlare di ogni cosa, la politica, l'economia, eccetera eccetera. C'è chi fa il suo mestiere, come Leandro e i suoi colleghi al mattino, e noi siamo colpevoli a non raccontarvelo. Questa è la mia opinione. Noi dovremmo farlo, perché quella è una tragedia italiana. Lì vuol dire che non ci sta la legge, vuol dire che l'economia non si può sviluppare, che si paga il pizzo, eccetera, eccetera. Non parliamone solo i casalesi. I casalesi sono un pezzo di questa roba qua, ma non ce la caviamo con lo storytelling. Questo è dovere, secondo me, e noi, fottutamente, non lo stiamo facendo. Questa è la mia impressione. Lo lascio lasciamo fare a chi sta in trincea, come quelli come Leandro e i tanti che fanno informazione territoriale anche in internet, non solo nei grandi giornali, nelle radio locali, a Napoli, in Campania, ma volgiamo gli occhi altrove, perché non abbiamo evidentemente capito un cavolo di niente di qual è la forza e la radice del fenomeno criminale. Perché se l'avessimo capito, ci occuperemo innanzitutto di quello che succede ogni giorno, e non solo quello che è successo anni fa e di quello che è successo su a proposito dello smaltimento rifiuti. Perdonate che mi appassiono, però secondo me la quotidianità è il vero metro per giudicare l'informazione. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta 16:47 primi a parlare della quotidianità e della presa della camorra ancora adesso, al di là del successo della serie televisiva su Gomorra, e del come mai non ce ne occupiamo a livello nazionale, lasciamo che occuparsene sia solo chi territorialmente fa informazione. Con noi Leandro Legaudio del Mattino, e la domanda che ti faccio a questo punto è, rispetto alla mitologia, insomma, per così dire, della mitologia che poi corrisponde alla realtà dei casalesi e così via, delle famiglie della camorra oggi in lotta a Napoli, quartiere per quartiere, in tutto l'Interland, quindi milioni di persone, che c'è una continuità, una discontinuità, il fenomeno, da quello che si capisce dai morti, dalle vittime, dalle estorsioni, e comunque si è evoluto ed è impermeabile, oppure alla fine le forze dell'ordine semplicemente non ce la fanno, ma sono sopra anche a tutte queste forme nuove della quotidianità? Guarda, fai bene a mettere il raffronto rispetto ai casalesi, perché la situazione negli ultimi anni, dal 2008 in poi, è oggettivamente degenerata, perché sono venute meno quelle strutture piramidali tipo Cosa Nostra, che avevano caratterizzato il dominio criminale del territorio negli ultimi decenni, e c'è una situazione sempre più orizzontale e uno scenario criminale sempre più polverizzato. Se noi pensiamo alla sola città di Napoli, sistematicamente gli apparati investigativi ci informano della presenza di circa 100-110 clan tra Napoli. 110 clan? Sì, stiamo parlando di un clan per ogni quartiere. A volte noi passiamo da una strada all'altra e immaginiamo che da una strada all'altra ci sia un radicamento diverso, di una famiglia diversa rispetto all'altra. È una situazione, ripeto, da medioevo. A volte è più facile confrontarsi, forse è sbagliato pure ragionare in questi termini, però a volte è più facile confrontarsi con Cosa Nostra o i casalesi, con un vertice e una serie di gradi intermedi, rispetto ad uno scenario in cui ci sono tanti potentati locali che rendono tutto più difficile in termini di contrasto e di, appunto, di risposta investigativa e anche processuale. Questo per quanto riguarda Napoli. Anche all'interno delle zone dell'Interland, che sono quelle più diciamo, strutturate secondo tipologie mafiose, c'è una pericolosa pericoloso carattere orizzontale del crimine organizzato. I veri boss sono stati arrestati, ci sono delle nuove leve, e di qui, da questo momento in poi, noi abbiamo registrato negli ultimi mesi proprio questa esigenza di trovare nuovi spazi e nuovi potentati criminali, di cui quegli episodi a cui facevo riferimento con i morti carbonizzati. Uccidere in questo modo così efferato significa voler dare la dimostrazione della propria presenza sul territorio, quindi della nuova, diciamo, la nuova strategia criminale, quindi della nuova realtà che domina su un determinato territorio. Io però ti volevo dire che il nostro ascoltatore prima ha fatto un intervento secondo me corretto, perché il problema criminale camorristico è un problema politico, nel senso che la politica spesso non sa dare risposta a questo tipo di realtà, quindi preferisce spostare lo sguardo. Anche la nostra politica, diciamo quella, diciamo, regionale o meridionale, perché noi dobbiamo ragionare in termini di quanto accade da Roma in giù, certo, anche di fronte ad episodi così efferati, non è che interviene con un comunicato stampa o si fa un convegno, vediamo un po' che cosa succede con 5-6 morti carbonizzati, se ne fregano, perché l'alternativa a tutto ciò è una risposta che nessuno sa dare. Questi qua si ammazzano ovviamente per i vecchi problemi, la droga, il controllo delle estorsioni, il controllo del mercato dei falsi, che a Napoli è molto prolifico. Ovviamente se noi sostituissimo alla camorra, se noi riuscissimo a debellare il crimine organizzato, nessuno riuscirebbe comunque a dare una risposta in termini di, certo, di guadagni, di incassi rapidi per centinaia di migliaia di famiglie nel territorio campano. Allora la politica spesso è incapace di fronteggiare tutto ciò, per cui se ne disinteressa. Perché viene chiamata in causa rispetto a quello che non sa offrire di legale, legittimo e di economico. Sentiamo Francesco che ci chiama da Napoli. Prego Francesco. Sì, grazie dello spazio, volevo confermare tutto quello che è stato detto fino adesso, e volevo anzi rettificare quello che ha detto il giornalista del Mattino, che io sono abitante del quartiere Secondigliano, sì. La camorra ha i serbatoi di voti. Ah, quindi insomma, appunto, per lei che sta lì, lei dice no, questi poi nel voto se ne occupano, e come, sì, insomma? Noi siamo ostaggi di poche centinaia di migliaia di delinquenti e indotto della delinquenza. Però aspetti, Francesco, io la faccio riflettere su questo. Lei ha giustamente detto, come Leandro Delgado ci ha detto, 110 famiglie, lei ha detto siamo prigionieri di centinaia di migliaia. Lei capisce che centinaia di migliaia tra Napoli e l'Inter, la Campania, stiamo parlando di un fenomeno devastante, a maggior ragione non occuparsene, per me è incredibile. Scusi che l'ho interrotta, diceva, voi siete ostaggi. Sì, io le dico solo che nella realtà di Secondigliano le persone, diciamo normali, sono costrette a lasciare il posto dove sono nate e vissute, perché ormai l'intrusione della delinquenza è così aspra e così dura che le persone, diciamo più normali, se ne stanno andando. Non ce la fanno più. Grazie Francesco, sentiamo Vitalba da Roma. Prego Vitalba. Buonasera, io penso che non trovino spazio sui giornali questi eventi, perché noi ormai, o probabilmente la stampa ormai, è abituata a considerarli quasi connaturate alle dinamiche di funzionamento di quei luoghi, quindi una sorta di normalità, sono normalmente insiti in quei posti. Forse anche per questo, diciamo, che vengono usate delle dinamiche, poi sempre, quindi delle modalità sempre più efferate nel compimento di quei delitti, forse perché anche gli stessi che li compiono si rendono conto di avere necessità di una maggiore visibilità, laddove invece quando guardiamo Gomorra comunque guardiamo il romanzo, sì, epico, sì, quasi, e quindi siamo maggiormente attratti, cioè non è normale, diventa l'evento, quindi attrae maggiormente l'attenzione di tutti. E d'altra parte, rispetto agli altri delitti che sono appunto ormai considerati normali, l'altro ci consente, diciamo, quasi di prendere le distanze da quella normalità e di dire che comunque è romanzone, ecco. Certo, chiarissimo quello che ha detto, mi sembra, anche condivido molto. La domanda che faccio a Leandro Del Gaudio del Mattino è questo: l'impatto di mutamenti della politica cittadina, la giunta dei magistris, la protesta di cui è stata espressione, ha cambiato qualche cosa dal punto di vista della risposta territoriale? Guarda, da un punto di vista del confronto col crimine, cioè dello scontro col crimine, purtroppo non ha cambiato molto, al di là della buona volontà, delle dichiarazioni di intenti. Io credo che la vera risposta, insomma, da parte della politica, quindi anche da parte del sindaco, può nascere nel momento in cui si creano degli spazi di aggregazione. Ovviamente lo sforzo di questa amministrazione va in questa direzione. Il sindaco ha liberato, tra virgolette, il lungomare, quindi ha cercato di offrire ai napoletani una passeggiata naturale sulle parti più belle della città, perché c'è la convinzione del fatto che la bellezza ti aiuta, ti salva. Se sei educato al bello, probabilmente, se nella tua vita non vedi solo le vele di Scampia, probabilmente forse aiuta. Però certo, il lavoro sarebbe meglio, ma lì non è che il sindaco però, al di là del lavoro, sì, al di là del sindaco, secondo me può fare molto. Il sindaco e gli enti locali non sono dei responsabilizzati nei confronti della lotta alla camorra, anzi loro sono i primi attori, questo bisognerebbe chiarirlo. Oh. Se tu salvi un monumento, tu hai probabilmente vinto. Bravo. Hai probabilmente salvato qualcosa anche in termini di contrasto al crimine organizzato. Ti faccio un esempio subito: a Napoli ci sono tanti monumenti anche risalenti al periodo greco, pensiamo alle mura greche di Piazza Bellini o alle mura greche di Piazza Caretta. E molto in più bisognerebbe fare. Se io lo illumino e creo un circuito positivo, probabilmente a Forcillo non ha. Allora Leandro, io purtroppo ho finito il tempo, posso solo dirti che torneremo su questo punto, perché centinaia di migliaia di attori del crimine, se non sono un problema, la colpa è nostra, mia, dell'informazione nazionale, non vostra. Auguri, continuate voi in ascolto su Radio 24, appuntamento a domani.